saputo che Guglielmo Marconi era credente, un buon credente, felicissimo di aver costruito con le sue mani la stazione radio Vaticana, felicissimo di consegnare il lavoro della sua intelligenza e delle sue mani a Papa Pio XI, che primo Papa al mondo ha potuto parlare con la radio, costruita da Guglielmo Marconi nei giardini vaticani. Chi ha qualche anno ricorderà le notizie come erano trasmesse dai giornali in quei momenti, come si parlava della scoperta della radio. Io ricordo un articolo, Guglielmo Marconi, dopo ore e ore e ore di prove, riprove, tentativi, finalmente scopre la radio, scoperta la radio, che annulla le distanze, si può sentire la voce di un individuo da un capo all'altro dell'universo. E in soffitta della sua casa, e incomincia a girare avanti e indietro la soffitta in cerca di un vecchio quadro, un quadretto della Madonna, affumicato ormai, pien di ragnatele, e si butta in ginocchio, tremando. Ma cosa aveva fatto? Cosa aveva visto? Scoperto la radio. Ora noi ci ridiamo quasi sopra perché è radiole di qui, è radiole di là, è televisione. Ma tutto è partito da quella scoperta. E lui si è buttato in ginocchio davanti ad un'immagine religiosa, perché si sentiva come schiacciato da questa scoperta che annulla le distanze, questa scoperta che gli ha fatto scoprire Dio. E lui si butta in ginocchio in quella soffitta come fosse stato in chiesa. Passeranno alcuni anni e Guglielmo sarà arrivato al valico famoso della morte. E a un certo punto, rivolgendosi ad un familiare che lo assiste, gli dice: «Avete avvertito il signor parroco che io sto male?» «Sì, Guglielmo, mandatelo chiamare, perché non lo chiamate? È qui, nell'anticamera, che aspetta, fatelo entrare!» E come entra il parroco, gli dice Guglielmo Marconi: «Signor parroco, mi aiuti a dire il Padre Nostro». Ed è morto dicendo il Padre Nostro insieme con il suo parroco, Guglielmo Marconi. Un genio dell'umanità. Si può dire che da quella scoperta l'umanità ha cambiato volto. E quest'uomo si sente un nulla davanti a Dio, autore di questa casa che abitiamo provvisoriamente. Anche lui s'accorse che quella bella casa era per lui di passaggio. «Chiamatemi il parroco, perché voglio partire da buon cristiano. Caro arciprete, il Padre Nostro, ho paura di non saperlo più bene, lo dica con me». Ed è morto così il grande genio Guglielmo Marconi, come un bimbo che recita la prima volta il Padre Nostro. Così ne parlavano i giornali nei giorni della sua morte.